que je n'ai vu que t'as aucun mot. Plus ta chère par l'orchestre, à l'Allemagne, je suis la chose. Moretti Giovanni da 16 anni nel settore commerciale d'una ditta di tessuti, e nemmeno per il funerale della mamma, una povera donna con un gran senso del decoro, nemmeno quel giorno dicevo ha fatto tardi al lavoro. Primavera, pochi capelli, poche illusioni di trovare la donna ideale come nei film, alla televisione. E sa di non essere bello, non essere ricco né intelligente, ma Giovannino di queste altre cose gliene frega meno di niente. E la sera la musica cambia e la vita si fa più leggera, rumba, salsa, merengue, mambo tra le luci della palera. Alla sera c'è chi si consola con un sorso di strego di Bov e chi come scintilla si invola tra una rumba, un two step e un foxtrot. La sera finito il lavoro, Giovannino ritorna a casa, torna a casa sempre da solo e non trova più la luce accesa. Entra nel salotto buio e silenzioso come lo spazio profondo e con le spalle poggiate al muro si apre una scatoletta di tonno. Dopo cena una sigaretta fumata sempre, solo a metà mette il cappotto, in tutta fretta nel pantano di luce della città si tuffa a passo spedito, s'avvia verso il clambo-cambo tra l'accenno di un meneito e il ratatara tara d'un samba. La sera la musica cambia e la vita si fa più leggera, rumba, salsa, merengue, mambo tra le luci della balera. Alla sera c'è chi si consola con un sorso di strego di Bob e che come scintilla si invola tra una rumba, un two step e un foxtrot. Con la svalutazione, l'inflazione, la congiuntura hanno detto stamane al lavoro non si sa ancora quanto si dura. Il Giovannino che sti paroloni gli capisce sempre solo a metà, gli ha detto il caposezione, qua s'entra tutti in mobilità. E in quel momento nella sua mente si è dipinta questa sequenza, dall'usciere al presidente tutti che si muovono a passo di danza, mentre c'è chi gli dice beato, beato te che non hai famiglia. Lui pensa al nuovo proletariato allineato in una quadriglia. E la sera la musica cambia e la vita si fa più leggera, non va salsa, merengue, mambo tra le luci della balera. Alla sera c'è chi si consola con un sorso di strego di Bob e che come scintilla si invola tra una rumba, un two step e un foxtrot. Come l'ultima nota quando stretti si balla l'amore in un lento. È arrivata anche a casa Moretti la lettera di licenziamento. Ehi, ora Giovanni è in cucina e guarda la pioggia, rigar la finestra, ma quel ritmo della sera prima non gli esce più dalla testa. E la sera la musica cambia e la vita si fa più leggera, rumba, salsa, merengue, mambo tra le luci della balera. E la sera c'è chi sconsola con un sorso di strego di Bob e chi come scintilla si invola tra una rumba, un two step e un foxtrot.